Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy D-Mike. See, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Direi che è il modo più bello per viaggiare. E buona domenica, buon pomeriggio a tutte e tutti, a chi ci ascolta in diretta, a chi ci ascolterà in replica o in podcast. Da stasera bentornati a tutti all'ascolto di Poi You Hit, la trasmissione dedicata alla letteratura di Radio Wombat, che va in onda ogni seconda domenica del mese alle 15:30. Io sono Mario e, come sempre, al mio fianco, ma ormai lo conoscete, poeta, traduttore, voce nota a questi microfoni, Edoardo Olmi. Vecchio Edo, ci sei? Ci senti? Ciao Mario, ciao Wombat, buona domenica e ben ritrovati a tutti quanti. E ben ritrovato a te. Non siamo da soli oggi, anzi abbiamo un sacco di voci ospiti in presenza o in assenza, ma un sacco di argomenti, e quindi direi che andiamo subito veloce per non rubare tempo alle molte cose che vogliamo dire e affrontare oggi. Io vorrei prima di tutto ricordare che ci potete contattare tramite l'indirizzo postawombat@insiberia.net, oppure anche intervenendo in diretta con noi su direttawombat.vado.li, oppure sempre dal sito radiowombat.net cliccando nella sezione contatti, dove c'è il link al pad col quale potete interagire con noi in diretta. Andiamo sulla 13:59 AM, oppure sempre in streaming via web. Nella trasmissione di letteratura di oggi facciamo velocemente un sommario. Che ne dici, Edo, di cosa parleremo? Molto, molto volentieri, anche perché abbiamo due autrici molto particolari quest'oggi, che mi proponiamo, che ci sono venute a trovare niente meno che da Roma e dintorni, sebbene per adesso solo in etere, ma speriamo di rivederle presto anche di persona. Poi, fra l'altro, è una puntata un po' romana oggi, nel senso che abbiamo sia due autrici capitoline, ma poi anche in collegamento Radio Onda Rossa per la presentazione dell'agenda di Scarceranda 2021. Eh sì, una puntata un po' romana in effetti, e io direi di cominciare prima di subito per non perdere altro tempo, a parte che vorrei tanto fare un saluto alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando, magari dalle cascine, magari guardando male i bambini. Un bacione a chi lo sta facendo, sappiamo che ci sono e quindi glielo mandiamo grande grande. Noi mettiamo subito una canzone, una anzi delle canzoni che hanno segnalato le prime due autrici, delle quali parleremo subito dopo, con le quali e delle quali parleremo subito dopo questo stacco musicale. Quindi fra due minuti con... no, non lo diciamo adesso, lo diciamo dopo. Via, Wombat! Stasera è primavera, usciamo da qua dentro. Conosco un posticino dopo la piazzetta al centro, proprio davanti al porto. Ti ci porto, c'ho un mio amico host. I pescherecci li portano ogni giorno le aragoste. E buio e nero il mare, in fondo una lampara. Noi su ste stradette un po' sbilenche, neanche una zanzara. Scendiamo contro vento, il vento è un festival. Viene dal sud, al Chad, Nigeria, Mali e Senegal. Ci sono stato anch'io lontano tanti anni fa. Mi sembra di sentirlo ancora, odore di mango e guaranà. Tagliavo il cocco col macete quando avevo sete. Sentivo la vita come adesso in questo marciapiede. Sarà sta musica, culla come una ninna nanna. Forse non ci credi, guarda qua c'è anche una bella canna. Il reg mi piace, sai correggo, ho preso le mie cotte. E il mare è caldo, poi faremo il bagno. Il bagno a mezzanotte. Questa terra è una terra ingrata. Oh mamma mia. altri sguardi in un mondo di bugiardi col sound system degli assalti. Questa terra è una terra ingrata. Bastava solo avvicinarsi un po', e ancora un po', sono le stesse cose che cerchiamo, adesso io lo so. Vieni con me stasera, è primavera, via da sta galera, da Ponte Galeria. Solo amore, amami fra Nigeria, non sono in regola le carte, ma cosa importa, le carte sono solo carte, la tua vita è arte. E questa musica tribale mi fa ricordare ogni tuo segnale, ogni tuo segno particolare. Questa terra è una terra. I tuoi occhi sono il mio nascondiglio. E ora cerco un figlio, un volto in questo porto mezzo morto, ma non ci sei più. Con la tua magia nel corpo e quel ragnetto sulla spalla, l'emozione a galla, c'è un foglietto che galleggia quella brutta luce gialla. Io l'ho letto, diceva addio a questa miseria. La vita non è vita, c'è di Ponte Galeria. Diceva grazie a chi mi ha voluto bene. La mia valigia solo un po' d'amore la teneva insieme. Questa terra è una terra. Siamo in diretta sempre su Poyo Hit, come annunciato iniziamo parlando di poesia, in particolare parlando con due poetesse che sono oggi nostri ospiti, sono Chiara Nobilia e Ludovica Lanini, le cui voci sentiremo fra pochissimo e non subito per un saluto iniziale perché abbiamo qualche piccolissimo problema tecnico e anzi anticipiamo che può darsi che ci sia un ritardo di qualche secondo nel sentire le loro voci, ma prima di tutto le vorrei velocemente introdurre, infatti stiamo per presentare due libri usciti proprio quest'anno, sono usciti nel 2020 per la collana Erkind, una collana di edizioni Ensemble tutta dedicata alla poesia femminile contemporanea, curata da Alessandra Bava, traduttrice e poetessa, membro delle brigate dei poeti rivoluzionari di Roma. Abbasso un attimo la musica e intanto anticipo leggendo dalla quarta di copertina dei loro nuovi libri chi sono le voci che stiamo per sentire. La prima è Chiara Nobilia, il suo libro è Svolgermi Ramificata 2020, appunto come anche l'altro. Chiara ha una laurea in lettere moderne, un master in copywriting, ha pubblicato un libro di racconti, Storie Sdrucciolevoli, nel 2016 e una raccolta poetica, Pietre e Amarene, nel 2016, col quale ha vinto il contropremio Carver nel 2017. Poi sentiremo subito dopo invece Ludovica Lanini, che nasce a Roma e inizia a scrivere poesie in seguito all'incontro col poeta americano Jack Hirschman, fra l'altro del quale Edo, mi dicevi, è proprio il giorno del compleanno oggi, dopo ne parleremo sicuramente. Un incontro è avvenuto in casa propria, anche lei membro della ROMS Revolutionary Poets Brigade, ed ha partecipato col gruppo a Reading e pubblicato in diverse antologie. Benvenute a entrambe, benvenute a questa puntata di Poyo Hit. Io inizierei, anche perché è la voce che dovrebbe darci un pochino meno problemi, a salutare Chiara. Ciao Chiara, ci senti? Ciao a tutti, ciao Wombat, vi sento benissimo, ci sono. E anche noi ti sentiamo benissimo, grazie intanto per questa partecipazione. Se sei d'accordo, come piace fare a noi qui, inviterei sia te sia subito dopo Ludovica a iniziare leggendo qualche vostro verso e quindi vi inviterei a leggere una poesia a testa per poi andarne a dialogare assieme. Volentierissimo, comincio con sedile passeggero. Più diritti civili per noi incivili, a patto che il colore della pelle sia quello giusto, confacente all'iconografia ancora oggi officiante che celebra l'impietra de sangre. Per questo il mio stomaco non dovrebbe rivoltarsi poi così tanto la domenica mattina in macchina con Andrea sulla Maremmana. Grazie al mio incarnato pallido, infatti, mi spettano una comoda collocazione sul sedile passeggero e qualche minuto a perdere, che consumo sintonizzando le stazioni sprigionate dall'FM, mentre fuori dal finestrino ecco una, due, tre donne in vendita, ragazzine in realtà, ma con occhi così asciutti, e il colore della pelle, quello sbagliato. Per me, fototipo 2, è previsto un pacchetto esistenziale con margini di possibile e un tasso variabile di discrezionalità. Intanto conto 4, 5, ragazze fototipo 6, seminude, esposte alle intemperie e alla nostra disumanità. In virtù della mia latitudine di nascita, sono autorizzata a sentirmi in pace, mentre altre donne che come me, si abbracciate, tecernono ossitocina, pagano malamente la loro, latitudine di nascita. 6, 7, 8, 8 persone ridotte in schiavitù, fuori dal mio finestrino, sul ciglio della strada, come erbacce, la domenica mattina. A quasi un secolo di distanza, deteniamo ancora, innegabilmente, la categoria delle nostre donne. Sul sedile passeggero mi domando cosa siamo. Questo era Sedile Passeggero di Chiara Nobilia. Grazie Chiara. Se siamo d'accordo e Grazie a voi. se riusciamo subito prima di parlare di nuovo e direttamente con le autrici, inviterei anche Ludovica a leggere una sua poesia in apertura di questa prima parte di trasmissione. Eccomi, Sì. sentite? Ciao Mario, ciao Wombat. Allora, vado con Crollo d'impero, che è il titolo del libro. Crollo d'impero. Sopravvissuti, quasi, intatti alla notte. Le occhiaie di nero, sentirsi davvero da crollo d'impero. Lacre nell'aria a occludere crudele. Le vie respiratorie, diaframma freddato. Le fiamme a fanfara procedere ostinate, divampate impietose da ogni punto cardinale. Il tremare a tradimento della terra, la ferita roboante a sventrare fondamenta, lo sgomento delle viscere in fermento del suolo. E le armate dei barbari a corrompere il confine. Lo spurgo straniero a singhiozzo d'eterna terza guerra mondiale. Li vedi rincasare, ultima corsa, unica donna, bianca, nella calca meticcia, direzione, riposo, prenestina. La circolare carica di rughe stanche, fibre spossate, tessuti neurali svuotati di fine giornata lavorativa. Questo era invece Questo scusate, questo era invece Crollo d'impero di Ludovica Lanini. Grazie a entrambe. Edo, quante cose vorremmo chiedergli e invece quante poche possiamo in questa mezz'ora che abbiamo a disposizione con loro? Beh, in realtà penso che anche in queste domande, insomma, in qualche già le suggestioni che ci sono arrivate da loro così, insomma, penso che parlino da sole, no? Sono testi molto forti che hanno una fisicità, mi verrebbe da dire, anche molto potente, no? Insomma, sono parole che arrivano dritte nel corpo e nelle viscere, non meno che nelle menti, e penso che, insomma, sarà una mezz'ora molto interessante con queste autrici, in cui chiedere e provare a sentire un po' anche dalle loro voci questo percorso che hanno fatto, questo percorso poetico che hanno fatto e che è compiuto appunto in questa nuova collana editoriale di Edizioni Ensemble, la collana di Herkind, che è una collana di poesia curata, diretta da Alessandra Bava, e che prende il nome chiaramente da una poesia di Anne Sexton, e è una collana di poesia interamente al femminile, interamente dedicata alla poesia femminile contemporanea. Sia Chiara che Ludovica sono tra le primissime autrici pubblicate per Herkind, e Alessandra Bava, che tu già citavi, Mario, è appunto essa stessa una poetessa romana, piuttosto conosciuta, insomma, piuttosto attiva nella controcultura capitolina, sia in quanto poetessa, sia in quanto traduttrice, ma non meno in quanto cofondatrice della Rome's Revolutionary Poets Brigade, ovvero appunto del gruppo della Colonna Romana, del progetto avviato, iniziato da Jack Hirschman a San Francisco. E Jack Hirschman, appunto, penso, insomma, molti lo conosceranno, e per chi non lo conoscesse, è il quarto poeta laureato di San Francisco, quindi è stato il quarto, diciamo, a ricevere una delle maggiori onorificenze poetiche degli Stati Uniti, nella città, insomma, che è stata culla dei Beat, dove vive, insomma, tuttora anche Ferlinghetti, che è amico anche personale di Jack Hirschman. Alessandra Bava è la fondatrice del gruppo romano delle Revolutionary Poets Brigade, nonché biografa, diciamo, ufficiale, tra virgolette, di Jack Hirschman, di cui, tra l'altro, felicissima coincidenza, oggi, 13 dicembre 2020, è niente meno che l'87° compleanno, quindi cogliamo l'occasione per fare anche tantissimi auguri a Jack, il quale Jack Hirschman ha scritto anche una bellissima prefazione al libro di Ludovica Lanini, di cui poi parleremo. E inizierei, diciamo, a fare una domanda a Chiara, che è stata la prima che ha letto appunto una sua poesia da svolgere di Ramificata. E come avete sentito, è un testo in cui appunto come dire, il corpo femminile e alcune di quelle che sono anche le questioni di genere, insomma, emergono molto fortemente. E mi verrebbe da chiederti, Chiara, insomma, mi incuriosiva sapere un po' da te anche come è stato questo, come sono state, diciamo, queste ramificazioni poetiche. Mi sembra che questo tuo libro sia in qualche modo in continuità anche con la tua prima opera, Svolgermi Ramificata, scusami, con la tua prima opera, Pietre Amarene, con cui già avresti alcuni riconoscimenti importanti, come ad esempio il Carver, dove ci siamo conosciuti, e dove già mi sembra ci fosse un po' questa tematica, diciamo, del corpo e dell'erotica del corpo. In questo caso, in particolare al femminile, un po' anche come elemento di rottura, no? Come faglia poetica che crea delle rotture con tutti quelli che sono i linguaggi, gli immaginari e le strutture sociali dominanti, no? Diciamo così. Mi sembra che in questo tuo secondo libro, in questa tua seconda opera di poesia, Svolgermi Ramificata, tu porti ancora oltre, no? Ulteriormente avanti questo percorso, appunto lo ramifichi ancora di più, e che questi temi, che queste tematiche si rafforzano ulteriormente, anche proprio a livello di scavo e di linguaggio poetico. Per cui volevo chiederti come sei arrivata a questa seconda opera e in che misura la senti anche in sintonia con quello che è il progetto della collana di Herkind. Allora, innanzitutto grazie sia a te Mario che a te Edoardo per aver ripercorso questa panoramica, per essere partiti anche da Alessandra Bava, che colgo l'occasione per ringraziare, per salutare, perché effettivamente mi dà la possibilità di sottolineare quanto questa mia raccolta si vada ad innestare e trovi veramente una terra fertile all'interno proprio della collana. Effettivamente, come dicevi Edoardo, ci sono delle tematiche, degli ambiti, dei movimenti che sicuramente sono appartenuti alla mia prima raccolta, perché sono proprio viscerali nel mio modo di fare poesia. E sicuramente però in Herkind ho trovato davvero un progetto poetico di riferimento in cui espandermi da questo punto di vista. Mi fa molto piacere anche la sottolineatura sul discorso del corpo, cioè quanto ad esempio anche in questa poesia, nella poesia appunto Sedile Passeggero, io sono partita effettivamente da sensazioni molto fisiche, reazioni molto fisiche alla visione appunto di donne ridotte in stato di schiavitù purtroppo, e le ho sentite vicine, affini a me, prima di tutto con il corpo, quindi ecco questo grande motore del fare poesia per me. Che raccoglie appunto tutte le sensazioni e che è un po' il nostro mezzo di contatto con la realtà, di scambio con la realtà. E sottolineo anche il discorso appunto femminile, sempre partendo da Herkind, che è questa collana bellissima in cui veramente noi donne possiamo trovare uno spazio che supera i confini geografici e sentirci unite nelle istanze fondamentali, arricchendoci vicendevolmente delle particolarità sia culturali. Abbiamo persa Chiara. No, forse sì, piccolo problema di collegamento un secondo con Chiara, ma credo che dovrebbe riuscire a risolvere fra qualche secondo. Magari nel frattempo possiamo girare la domanda anche a Ludovica e poi riprendiamo con Chiara, che mi sembra che stavo già dando delle suggestioni importanti. Come no? Ok, e quindi in attesa di ripristinare il collegamento con Chiara Noviglia, e vorrei chiedere a Ludovica, che ci ha letto appunto quella sua bellissima poesia che è Crollo d'Impero, che è quella che dà il titolo alla sua prima raccolta di poesie uscita essa stessa per Herkind, con prefazione niente meno che di un certo signore Jack Hirschman, oggi, proprio quest'oggi, 87enne. E ti volevo chiedere, Ludo, diciamo appunto, tu hai un percorso di lungo periodo sia con Alessandra Bava, soprattutto tramite la Roms Revolution e Poets Brigade, dove ci siamo conosciuti fra l'altro a Roma, e hai avuto modo in questi anni anche di incontrare e di conoscere personalmente Jack Hirschman, di collaborare, no? In qualche modo anche con lui in alcuni reading a Roma, e credo sia, insomma, ci sia stato anche uno scambio poetico molto interessante tra di voi. Tant'è che so che quando è stato proposto a Jack di scrivere la prefazione alla tua prima opera poetica, lui non solo ha accettato, ma è stato anche piuttosto entusiasta della cosa. E ha scritto, fra l'altro, secondo me, una prefazione molto bella al tuo libro, cogliendo anche vari aspetti importanti della tua poetica e anche proprio della sonorità, no? Della musicalità, se vuoi, della tua poesia. Per cui, ecco, volevo chiederti un po' se ci racconti un po' come si è sviluppato questo tuo percorso con Alessandra, che ha portato poi alla pubblicazione con Herkind, e se ci dici un po' come si fa a farsi apprezzare, diciamo, da Jack Hirschman, al punto da farsi scrivere una prefazione. So che c'è anche un piccolo aneddoto che riguarda addirittura una festa a casa tua nel lontano 2011, se non sbaglio. Sì, eccomi. Dunque, è vero, per me l'approdo ad Herkind, come dicevi, ha seguito un flusso naturale, direi. Ora vi parlo dal mio soggiorno ed è qui che effettivamente è iniziato tutto, come ricordavi, con un reading casalingo underground del 2012, organizzato qui dall'allora mia coinquilina Olga Campocreda. E in questo reading, per la prima volta, ho avuto modo di conoscere questo poeta, dall'aspetto anche molto particolare, molto alto, con un grande cappello e appassionato di vodka. È stato il mio primo incontro con Jack Hirschman. E non solo, ma quella sera, per la prima volta, ho anche conosciuto la biografa di Jack Hirschman, nonché traduttrice e poetessa, più volte citata, Alessandra Bava. E quindi è da questo reading che è nata poi questa collaborazione. Io allora non scrivevo poesia, ero semplicemente lì, ero a casa mia, Chiara ok, Enter Channel. a tutti gli effetti, ma semplicemente assistevo a questo reading. Ma Rimasi molto colpita da Jack, dall'atmosfera, dal suo discorso della poesia che è in realtà in tutti noi. Cioè, il discorso di Jack è quello di una poesia non intimista, non individuale, ma una poesia collettiva, una poesia flusso molteplice, flusso coinvolgente, una poesia inspiring. E effettivamente sulla scia di queste suggestioni, io inizialmente ero semplicemente una sorta di groupie, seguivo questi reading. E ho scritto il mio primo testo e l'ho fatto leggere a Jack, che ha effettivamente molto apprezzato e mi ha spinto a continuare, ecco, fino ad adesso. Per quanto riguarda il progetto di Her Kind, potrebbe sembrare strano che venga pubblicata in un'antologia, scusate, in una collana del genere, un'autrice che poi ha uno pseudonimo maschile, perché il mio nome poetico è in realtà Emilio Smunti, cioè un nome maschile, ma in realtà la cosa ha un senso, perché il fatto di a volte scrivere di sé al maschile, perché in molte poesie io parlo di me al maschile, in altre no, in altre come quella che ho appena letto, parlo di me esplicitamente come donna, ma ecco, il fatto di avere anche delle esperienze in qualche modo mentalmente maschili o di associare a sé degli stilemi che sono tradizionalmente maschili come la forza o la muscolarità o la corporeità, ecco, secondo me sono tutti elementi che sono parte di un nuovo essere femminile, di una nuova identità femminile che è probabilmente tuttora in via di formazione. Beh, sembrano già, insomma, risposte e tematiche molto interessanti. Tra l'altro è vero, Ludo, non ci avevo pensato, ma fino ad alcuni testi appunto mescoli, no? Continuamente. Ti piace, no? Confondere le idee, è bella questa cosa che ti esprime a volte sia al femminile che al maschile. Salutiamo ovviamente anche Emilio Smunti, ovvero tuo pseudonimo ed alter ego. E non so, Mario, se andare subito con un'altra domanda o se facciamo una lettura. Ma io, se forse vogliamo riprendere Chiara, che vedo che l'abbiamo di nuovo. Sì, è vero, siamo riusciti a ripristinare la connessione con Chiara Nobilia, che purtroppo era stata interrotta durante la risposta precedente, quindi se vuoi, Chiara, bentornata e riprendi pure il filo. Eccomi, perdonatemi, sì, sono rientrata. Parlavo appunto, ho perso purtroppo l'intervento di Ludovica che ovviamente riascolterò. Mi aggancio alle sue ultime parole, al discorso dell'identità femminile. Parlavo appunto del fatto di essere donna come cardine appunto della collana e un essere donna quindi che supera i confini geografici e che riesce a raccordarci in alcune nostre esigenze e istanze fondamentali. In particolare, appunto, nella poesia che ho letto, quello che ho voluto evidenziare è stato quanto io possa essere e sono nella realtà uguale, naturalmente identica a una persona che ha una situazione completamente diversa dalla mia, una base di partenza diversissima, ma in realtà come esseri umani, come interiorità, anche come delicatezza di cuore, siamo appunto sorelle, siamo identiche. Ed eccoci sempre. Forse magari vogliamo, prima della seconda domanda, Edo, ti rubo io lo spazio per farne una piccola leotrice di passaggio, ovvero sulla scelta delle canzoni, nel rischio di non riuscire a farlo dopo in chiusura. La canzone che abbiamo sentito prima degli Assalti Frontali è quella che sentiremo dopo di non mi ricordo chi, sono state scelte proprio dalle nostre autrici ospiti e magari vogliamo domandare loro come mai queste canzoni? E poi riprendere con una domanda un pochino più seria sulla loro poetica e le loro poesie. Beh, la domanda sulle canzoni mi sembra una domanda più che seria, anzi, visto che parliamo di poesia, che anche la poesia di Chiara Ludovica ha anche molto a che fare con la musicalità. Sì. Chi risponde per prima? Vado Facciamo prima io? Chiara. Ok, vai Chiara e poi Ludo. Allora, sicuramente quella che abbiamo ascoltato degli assalti frontali è proprio affine, assolutamente collegata sia come tematica per la protagonista appunto del pezzo, ma io direi proprio come tonalità emotiva, quindi è un pezzo combattente, è un pezzo forte, ma è anche un pezzo molto, molto delicato, che parla appunto profondamente all'interiorità. E non so se posso fare anche un accenno al secondo eventuale pezzo che avevo scelto. Certo. E il secondo pezzo ovviamente si intitola Viva Palestina, è un pezzo che mi piace moltissimo, che è chiaramente ed evidentemente legato alla Palestina alla realtà palestinese, e anche questo è un pezzo molto, molto forte che dice le cose con chiarezza, con energia, e anche questo, quindi, non solo per la tematica, ma anche proprio per il tipo di musicalità, lo sento molto collegato poi alla seconda poesia che ho scelto, e anche quella è una poesia di indignazione e di denuncia. Che sentiremo subito dopo, fra l'altro. Vogliamo fare la stessa domanda magari a Ludovica? Ludovica. Sì, io ho scelto Refuse to Lose dei Nonfiction, e mi dispiace per voi perché è un brano gangsta rap che dura circa 5 minuti, quindi mi auguro che lo taglierete. E dunque, per me è significativo innanzitutto perché è una dei beat che io anni fa utilizzavo proprio come base per i miei reading. In particolare un testo lo leggevo sempre su questo beat. E poi, vabbè, è un testo abbastanza cardine dell'hip hop, del gangsta hip hop, dell'hip hop hardcore degli anni 90. In particolare parliamo di hip hop della East Coast, di New York, della Brooklyn. Insomma, è un pezzo urbano e il mio libro è un libro che parla di Roma. Che parla della Roma più oscura, più decadente, più fangosa, quindi sicuramente anche come setting, come ambientazione è adeguato. E poi c'è da dire che è vero che io, vabbè, ho una laurea in lettere, ho un dottorato in linguistica, ma la mia principale fonte di ispirazione è il rap, meglio se di borgata. E Refuse Refuse Toulouse Toulouse e Viva Palestina Evviva. sono proprio le canzoni che sentiremo, scusate, ho parlato troppo presto, che sentiremo più avanti. E do parola a te. Intanto grazie ancora all'autrice, oltre che per le bellissime poesie, anche per i brani musicali, per le canzoni che hanno scelto, che penso insomma si intonino molto ai loro versi, anche alla ritmica, no? Dei loro versi, penso anche a sia quello che diceva Chiara sulla poesia che dopo ascolteremo sulla Palestina, su cui poi anche una domanda da farle, e anche quello che diceva Ludovica sul fatto che la sua poesia, la sua poetica, in effetti sono, penso, no, Ludo, anche abbastanza legate, piuttosto legate a una controcultura, o comunque insomma a un underground, se così vogliamo definirlo, anche musicale, che viene da Roma e non solo, insomma, per parlare persino della East Coast americana, però si sente anche nei tuoi testi una certa ritmica, sono quasi rappabili, no? Mi verrebbe da dire, le tue poesie, soprattutto in alcuni testi. E quindi non so, Mario, andiamo con una seconda domanda per le autrici o vogliamo ascoltare prima una loro lettura? Come preferiscono e preferisci, direi. Non abbiamo doveri. Ma secondo me, essendo che le domande si collegano bene ai testi e che secondo me è sempre bello far parlare prima di tutto i versi e poi da quelli, diciamo, eventualmente le parole. Se ti va, ascolterei un'altra lettura di Chiara e poi di Ludovica e poi farei una seconda domanda a entrambe. Con molto piacere, siamo tutti orecchi. Vai, Chiara. Eccomi. Allora, questa poesia si intitola Non mi sento sicura e ci tengo a citare anche la dedica che è a Carmen e Domi che restano umani. Non mi sento sicura nella stazione metropolitana videosorvegliata, mentre cammino accanto al militare in mimetica, munito di mitra e neo diciottenne, è più spaventato di me. Non mi sento sicura tra paesaggi urbani presidiati, all'ombra di un orizzonte militarizzato, mentre il frastuono mediatico sovrasta assordanti omissioni. Non mi sentirò sicura finché i megafoni non risuoneranno delle di Gaza e finché i quotidiani non urleranno, tramite apposito font di impatto e titoli in grassetto maiuscolo, per l'oscena e reiterata violazione dei diritti umani inflitta al popolo palestinese. E finché non rinfrescheranno le nostre corissime memorie, ricordandoci i numeri di piombo fuso, 23 giorni, 1.100 civili uccisi, 5.300 feriti, di margine protettivo, 51 giorni, oltre 2.000 morti, di cui oltre 500 bambini, 470.000 sfollati, 160.000 case distrutte e di altri capolavori israeliani. Nei più prestigiosi musei dei centri cittadini, dovranno essere allestite mostre fotografiche dedicate alla vergogna alta 8 metri e lunga 730 km del muro della Cisgiordania e uno per uno ai troppi checkpoint, mezzo di stazione ed intimidazione, un popolo a cui viene negato il diritto di circolare liberamente sulla propria terra. I TG dovranno riservare le prime pagine a ogni nuovo caso di detenzione amministrativa, di cui la cosiddetta democrazia d'Oriente si avvale come prassi quotidiana a base di torture e trattamenti inumani per punire azioni di resistenza anche nei confronti dei bambini. Fra i 500 e i 700 sono i minori palestinesi arrestati ogni anno da Israele. I giornalisti dovranno scrivere puntualmente delle armi che contro un popolo senza esercito utilizza un popolo armato. Bombe al fosforo, droni, missili. In questo adesso, però, mentre Gaza non smette di essere a ferro e fuoco, si tenta perfino di usurpare Gerusalemme come capitale e il progetto di una strada romana intitolata ad Arafat prende polvere su qualche scrivania, ribadisco, non mi sento sicura. Continuo a camminare nella stazione metropolitana videosorvegliata. Nei terremoti futuri, io spero, e in un'intifada delle coscienze. Grazie Chiara, e direi che andiamo alla domanda per te, a quella per Ludovica, subito dopo aver ascoltato anche la lettura di Ludovica Lanini. Sì, grazie. Io vado con gli altri. Ah, premettiamo che citerò Lama, che è la bolletta della spazzatura qui a Roma, per chi non lo sapesse, ed è un'atroce minaccia da circa 180 euro che si presenta 2 volte all'anno. Allora, gli altri. Che ti ha dato, in fin dei conti, questo mondo sito al nord, invidiato da tanti? Isolamento, perdita di contatto con la realtà, sempre ammesso che esista e non si tratti piuttosto dell'ennesimo costrutto, dissapori endemici a saturare le coscienze, il credo della scienza, l'esigenza di difendere da demoni i confini, consapevolezza di intrattenersi, divertirsi, ristorarsi, dovuto, dignitoso, dopo ore di lavoro a spese altrui. Che ti ha dato, in fin dei conti, questo mondo sito al nord invidiato da tanti? Sempiterni, problemi giornalieri, privilegi per gran parte degli altri, gli altri, troppo sporchi, strani, distanti, destabilizzanti, come insetti mostruosi, sorpresi, improvvisi, di notte in cucina. In genere li ammazzi, o ti allontani, intontito, spenta la luce alle spalle, gli altri non sono previsti. Se non altrove, lontano, troppo a sud per sentirli, non ascolti quel groppo indurito in trachea che ti opprime, ti chiama, non ti importa. o soltanto nei ritagli di tempo e del resto. C'è da pensare a come alzare i 180 per lama. Eccole qua le seconde letture da Volgere di Ramificata e Crollo di Imperi di Carnubile a Ludovica Lanini, e bellissime ovviamente, insomma, anche queste poesie diverse tra di loro, ma allo stesso tempo molto forti, no? Molto potenti entrambe, che vanno a colpire al cuore, no? In qualche modo del mondo e della contemporaneità in cui viviamo. La domanda che mi faceva farvi in realtà è simile e diversa per entrambe, nel senso che avete letto le poesie che toccano temi molto forti di attualità e sappiamo bene, insomma, quali sono le tematiche, da cosa appunto TG e quant'altro sono occupati in modo prioritario, insomma, da qualche mese a questa parte. Insomma, attraversiamo un periodo un po' complesso, complicato da molti punti di vista con questa pandemia, e però appunto mi piaceva l'idea di provare a collegare un po' le vostre letture, i vostri libri, che fra l'altro sono usciti, se non sbaglio, quello di Chiara in particolare, ma anche quello di Ludovica, mi sembra, la prima presentazione alla Casa Internazionale delle Donne doveva essere fatta proprio l'8 marzo 2020, e giorno in cui, insomma, sappiamo bene cosa è successo, e in cui poi purtroppo la presentazione è stata rimandata a settembre, perché iniziò appunto il primo dei lockdown con cui ci siamo trovati ad avere a che fare da qualche mese a questa parte. Però ecco, mi piaceva il fatto che i vostri testi, i vostri libri in qualche modo aprono, no? Lo specchio e la visuale, continuano ad aprire, a cercare di scardinare la visuale, lo sguardo sulla realtà, e in quanto in mezzo a tutto questo stanno accadendo e stanno continuando ad accadere anche molte altre cose, no? Di cui a volte quotidianamente presi, insomma, da tutto quello che sta accadendo tendiamo un po' a volte a dimenticarci. E per esempio mi piacerebbe chiedere a Chiara, appunto, nella poesia che ci hai letto, non mi sento sicura, esprimi questo disagio, no? Questo senso di alienazione anche in qualche modo nei confronti di quelli che sono un po' tutti i dispositivi di sorveglianza e di controllo messi in campo a livello istituzionale, che si stanno anche molto amplificando, no? In questi mesi di pandemia da Covid. E però sembra a volte ho la sensazione, almeno, che forse a volte mi sembra che non sia neanche del tutto un caso, no? In qualche modo, che TG e organi di informazione abbiano in prima pagina sempre e costantemente tutto questo, e che a volte tante altre cose in sé per sé non necessariamente meno gravi o meno problematiche che stanno accadendo nel mondo, vedi la resistenza palestinese, quello che accade in Palestina, l'occupazione della Palestina, vedi tutte le guerre che attraversano il pianeta, vedi questioni che riguardano la crisi ambientale, o questioni che riguardano e continuano a riguardare le tantissime persone che ogni giorno si mettono in marcia da varie parti del mondo verso altri paesi, verso altri continenti, alla ricerca di una vita e di un futuro diverso. E quindi ecco, volevo chiederti se anche tu in qualche modo senti questa cosa, cioè il fatto che quello che sta accadendo in qualche modo è la conseguenza, no? Di quel senso di quel non sentirsi sicuri che già avevamo prima di fronte a tutto questo, e che in realtà adesso forse si è ancora più amplificato, nonostante ci venga ancora una volta fatto passare per un maggior bisogno di sicurezza o presunta tale. E più in generale, un po' come vedi in questo momento, dal tuo punto di vista, la poesia come possibile strumento che voglia continuare a denunciare ogni sorta di ingiustizia sociale, e continuare a cercare di smascherare un po' quelle che sono le varie mistificazioni da parte, diciamo, del potere, ecco. Allora, sicuramente tutto quello che sottolinea Edoardo, il fatto di riportare da parte degli organi di stampa un fatto che può essere quello della pandemia, ma ne possiamo prendere tantissimi, e potremmo anche trovare un filo rosso che unisce in quest'ottica la Palestina con la pandemia attuale, no? C'è uno scarto sicuramente che può essere ovviamente generato anche dall'obiettivo della comunicazione tra ciò che accade effettivamente e la narrazione che se ne fa. Per cui adesso in figura e in maniera preponderante abbiamo per forza di cose, ma anche io direi come dato di realtà, ovviamente la pandemia, però poi il modo di raccontarla è una questione sicuramente importante, sicuramente a parte. E come dico proprio nella poesia, io ho voluto associare il fatto dell'idea di sicurezza e che adesso si va sempre più affermando anche in una maniera un po' strisciante, perché la cominciamo ad associare, come giustamente evidenziavi tu, magari un po' al controllo, all'ipercontrollo o anche parallelamente alla militarizzazione. Ecco, la sicurezza invece per me, come cittadina, può essere avere a disposizione le informazioni, quindi poter accedere alle informazioni, a dati concreti e reali. E quindi di questa esigenza, di questo bisogno, ho voluto appunto parlare all'interno di questa poesia, denunciando sia una situazione che andrebbe veramente totalmente ripercorsa con le parole proprie e opportune, quindi abbattendone alcune che vengono utilizzate e invece utilizzandone altre più corrette, quindi nel caso della Palestina parlando di apartheid, di occupazione e dicendo che un processo di pace non c'è. Ecco, in questo senso per me la poesia può avere un grande potere nel ripristinare e nell'affermare con forza, con potenza, quelle che sono le parole più aderenti alla verità, quelle che si avvicinano di più e quelle che la raccontano di più. E rispetto a questo momento, appunto rispetto alla pandemia, io sento che ovviamente ha evidenziato, evidenzia delle carenze, delle contraddizioni di un sistema economico che ancora più con chiarezza emerge come fallimentare. E sicuramente fa venire alla luce nuove istanze, ci sta facendo anche fare delle esperienze particolari, per cui sicuramente ci sono da trovare nuove parole, no? Per parlare della deprivazione in cui siamo, per parlare della mancanza di corpo, perché in questo momento per tanti motivi perdiamo il corpo e perché siamo immersi proprio in un'idea pervasiva di contaminazione. Personalmente in questo momento sono dal punto di vista poetico più in una fase di elaborazione che di creazione. Quello però che ci tengo insomma un attimo a raccontare che ho fatto durante questo periodo, che ho curato un'antologia a sfondo benefico intitolata Contatto, antologia di risposta collettiva al Covid-19, insieme ad Anna Martinenghi, l'ideatrice di questo progetto, a Giorgia Ferrari. E si tratta appunto di un'antologia collettiva. Mi piace molto questo, il fatto che abbia raccolto contributi di 120 autori che si sono voluti mettere in gioco e hanno voluto appunto raccontare la loro esperienza di questo momento, di questo periodo, di questa nuova realtà. E tramite questa antologia stiamo sostenendo le terapie intensive degli ospedali di Crema e di Cremona, quindi ha anche uno sfondo poi concreto di aiuto, di solidarietà, insomma, molto, molto pratica. E sicuramente, ecco, il fatto di realizzare un'opera collettiva, mettendo in comune le creazioni di molti, è un'esperienza molto, molto forte per me e anche un'esperienza proprio che mi convince ancora di più, del fatto dell'importanza proprio di una risposta comunitaria e sociale. Collettiva ad un momento come questo, ecco. Beh, sì, assolutamente Chiara, anzi grazie per averci dato anche questa esperienza di contatto dell'antologia con Anna Martinelli, che tra l'altro conoscemmo insieme, mi ricordo, al Carver, dove ci siamo conosciuti anche io e te. E grazie, ora passo a una domanda, a un'altra domanda a Ludovica, che in realtà è un po' collegata, no? Appunto anche a quello che tu Chiara dicevi, riguardo alla situazione che stiamo attraversando e tutto quello che in qualche modo più o meno direttamente ne è connesso. Collegato a quello che tu dicevi riguardo appunto informazione, mistificazione e sicurezza, non sicurezza, credo ci sia proprio una delle questioni che in qualche modo affrontava anche il caso di Ludovica, no? Ovvero quello diciamo della vicinanza, no? Del contatto umano in qualche modo, di cui è fatta, dovrebbe essere fatta non meno anche la poesia. E il caso di Ludovica, insomma, mi sembra che esprima bene il senso di questa questione e anche dell'alienazione, no? Che il nostro tipo di società portava già prima della pandemia da Covid, da questo punto di vista, e di cui forse appunto tutto questo altro non è che un'ulteriore triste conseguenza, quella che in un modo o nell'altro stiamo attraversando e stiamo affrontando. Per cui vorrei chiedere a Ludovica proprio questo, ecco, diciamo, gli altri di cui tu parli in quella poesia, in quel testo. Oggi, in questo momento, sembrano star diventando un orizzonte forse ancora più lontano, no? Rispetto alla lontananza che già avevano alla luce di quello che è accaduto con la pandemia e di quelle che potranno essere, speriamo di no, ma che forse potrebbero essere anche le conseguenze più di lungo periodo, no? Di tutto questo, sia da un punto di vista sociale che culturale che relazionale. Per cui, ecco, volevo chiederti. Come senti, come percepisci e come ti sembra, diciamo, di vedere o di poter intravedere oggi la poesia, la poesia intesa prima di tutto come comunità, no? Come modo di esprimersi e quindi di poter anche creare forme diverse di aggregazione, no? Fra persone. Come vedi oggi un orizzonte poetico in un mondo che in qualche modo avrà bisogno di ricostruire forse da capo un qualche tipo di relazionalità e un qualche tipo di socialità. Esatto, come dici tu, sicuramente l'esperienza del Covid ha amplificato quella che è una caratteristica essenziale del mondo occidentale, ovvero quella dell'isolamento, dell'individualismo, del ripiegamento su di sé. L'amplificazione di una dimensione che in maniera stereotipica e tradizionale viene spesso associata alla poesia, cioè la poesia viene spesso effettivamente legata ad una dimensione di isolamento, di ripiegamento, di intimismo. E, però, per come io vedo l'attività poetica e per quello che è anche l'approccio della Revolutionary Poets Brigade, la poesia ha sì un momento intimo, un momento di isolamento, che è il momento in cui effettivamente si buttano giù le parole su carta o mentalmente. Ma essenzialmente la poesia nasce dall'altro e va nell'altro. Cioè la poesia nasce da un'esperienza esterna rispetto a noi, nasce dal mondo, nasce dall'altro, dagli altri, di cui dicevo prima con il testo. E l'intento del discorso poetico è di tornare in alio, perché per come vedo io e come viene detto anche nel mission statement della Revolutionary Poets Brigade, la parola poetica deve essere inspiring, come dicevo anche prima, cioè l'obiettivo ultimo è quello di colpire, è quello di essere come una cue, come un indizio, un qualcosa che faccia pensare gli altri. Quindi se manca l'altro, la poesia sicuramente si trova in grande difficoltà. E, sicuramente C'è da dire che in questa situazione di isolamento e dunque di difficoltà poetica abbiamo effettivamente scoperto delle nuove forme comunicative, delle nuove forme espressive che effettivamente erano particolarmente sconosciute al mondo poetico. Per esempio, mi è capitato di partecipare a un reading su Zoom. Un reading della Revolutionary Poets Brigade, ancora una volta, internazionale, che coinvolgeva autori di 25 paesi diversi, quindi sicuramente una formula del tutto nuova che mi ha permesso di assistere di persona a poeti e poetesse che non conoscevo, che comunque conoscevo solo per iscritto, quindi mi è stato possibile accedere anche al momento performativo che è così importante. E quindi in qualche modo questa situazione ha smosso dei poeti principalmente settantenni di San Francisco e ha smosso persino me, quindi ecco, sicuramente di positivo c'è la scoperta di nuovi mezzi per portare avanti quel tipo di parola poetica inspiring, come dicevo, potente in cui crediamo. Eccoci, grazie intanto a Ludovica e grazie a Chiara per queste risposte, grazie per questa partecipazione che se volete, fra l'altro non è finita perché ci potremmo risentire dopo il prossimo blocco di trasmissione durante il quale vorremmo presentare Scarceranda per un saluto di uno degli autori che fra l'altro è anche vostro compagno in qualche modo di dedizione. Ricordo soltanto che i loro libri, Svolgermi ramificata di Chiara Nobilia e Crollo d'impero di Ludovica Lanini, dalle quali abbiamo sentito alcune letture, si potranno trovare, si possono già, credo, vero Edo, trovare su edizioniensemble.it. Sì, assolutamente, sono disponibili sul catalogo, nella pagina della collana Herkind, diretta da Alessandra Bava, e quindi sì, consiglio e consigliamo a tutti di approfondire la lettura di queste già bellissime poesie che abbiamo ascoltato quest'oggi. Intanto davvero grazie Ludovica, grazie Chiara per essere state e rimanere con noi se volete anche più tardi. Giusto un saluto, forse ce la facciamo a farlo, un minuto in più tanto. Ok, no, in effetti un pochino di problemi tecnici, ma forse ci risentiamo direttamente dopo. Intanto mettiamo una delle canzoni scelte dalle autrici, da Ludovica, Refuse to Lose, subito dopo. Purtroppo devo staccare per fare l'intervista che segue sia alle nostre ospiti sia a Edoardo, ma li riacchiapperemo subito dopo. Adesso andiamo a presentare Scarceranda 2021 assieme a un compagno di radio Onda Rossa e poi un omaggio e un saluto al nostro anche amico, oltre che da tempo concittadino, Hassan al-Nassar, di cui ricorre oggi il terzo anniversario della scomparsa, un poeta iracheno, ma insomma chi ascolta queste frequenze ben lo conosce. Dunque, presentazione di Scarceranda e a fra poco sempre su Poyo.it. Nothing more sick than Teradome. I walked the path of righteous even when fouling Joe Pepitone. Clock awoke me, was like a quarter past six. Got out of bed depressed, home with the kids, talking about real shit, nonfiction. If you ain't down with us, then you a victim. We stay tight like killers up north, the new religion. The ghetto's hell, filled with bad luck and born thieves. Impossible greed throughout the projects. Mothers with blunt weed, you dance like Sam Jackson for rocks. Aiming the cops, camouflage evil, desensitized devils with red dots. I take Hashem's orders, keep my team close to the Mexican borders. With no pause and fallout stands, ghetto supporters. I got so much trouble on my mind. Displays the

Wombat. All we hear is Radio Wombat. Radio Wombat. Radio Wombat. Radio. Someone still loves you. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle. In them old cotton field back home. E di nuovo. Eccoci di nuovo in diretta su Radio Wombat in questa domenica pomeriggio, ogni seconda domenica del mese in onda a Poi You Hit, la trasmissione di letteratura di Radio Wombat. Siamo sempre in compagnia, ci sono sempre, le risentiremo fra poco, le Chiara e Ludovica, le due autrici che abbiamo intervistato nella prima parte della trasmissione. Abbiamo appena sentito la presentazione di Scarceranda 2021, Errata Corridge. Ho detto che il pranzo all'Emerson è domenica prossima, invece no, è sabato prossimo, il 19 dicembre alle 12.30, ci si può prenotare scrivendo ad assemblea @csaexemerson.it per il pranzo, mentre non importa prenotarsi, ma basta passare per Scarceranda. E in questa ultima parte di trasmissione, invece, mentre abbasso la musica, introduco il tema, introduco anzi la persona di cui ci preme un po' parlare, perché è proprio a dicembre, proprio nei prossimi giorni, che ricorre il terzo anniversario della scomparsa di Hassan al-Nassar, un grande poeta iracheno, meglio nato in Iraq, ma poi vissuto in Toscana e a Firenze in particolare, uno dei massimi poeti d'esilio degli ultimi anni, ma forse potremmo dire di sempre, nato appunto in Iraq, si può dire che proprio in qualche modo sull'esilio e sul dolore che questo comporta, che si fonda un po' tutta la sua opera, e che non si può intendere esclusivamente come un esilio geografico, ma va letto in senso assoluto, forse come un'idea di lontananza dell'essere umano dal mondo circostante per via della sua fragilità, anche se questo lo scrive fra l'altro Edoardo Olmi nella prefazione del libro Il Labirinto, pubblicato da Ensemble un paio d'anni fa. Non è di pessimismo, quantomeno non di pessimismo leopardiano, fra virgolette, che si deve parlare parlando di Hassan che ci è molto vicino, un poeta che ci è molto caro e del quale volevamo appunto fare un breve ricordo, anche perché stanno per uscire cose nuove, sta per uscire proprio, ma ora ce lo dirà, su Fuori Binario, un nuovo testo a lui dedicato da Edoardo Olmi, ma stanno anche per uscire, non so in quali tempi, anche questo ce lo dirà subito, altri suoi lavori, perché c'è in corso un'opera di ricercazione all'interno del suo archivio personale, giusto Edo? Beh, sì. Ok, Edo. Scusami, Mario, sì. Eccomi qua, ecco, è ripartita la connessione. Ben ritrovati a tutti e grazie mille a Radio Wombat e Poi Wit anche per questo ulteriore momento, questa ulteriore possibilità di ricordare insieme a Sanati al-Nassar, che fra l'altro in molti, insomma, di voi penso che conoscessero, insomma, a Firenze era un personaggio abbastanza conosciuto, anche negli ambienti e negli spazi di movimento, come tu dicevi, Mario. Hassan Atiyah al-Nassar è stato, io credo, noi anche come affluente, non solo noi, insomma, abbiamo sempre ritenuto che sia stato uno dei poeti dell'esilio, anche se poi lui non era strettamente un esule, era un rifugiato politico, ma la sua poetica, la sua poesia è legata sicuramente a questa tematica di una terra lontana che poi diventa, appunto, come tu stesso in qualche modo accennavi, una condizione d'esilio che va ben oltre la dimensione, la condizione strettamente fisica, no? Dell'esilio, ma va in qualche modo a allegorizzare, se vuoi, a esprimere una condizione d'esilio che diventa in qualche modo appunto allegoria di una condizione umana, no? Dell'uomo e dell'essere umano nella contemporaneità, nella modernità, in qualche modo anche nella postmodernità. Di Hassan Adi Al-Nassar, anzi, non solo abbiamo pubblicato, ma addirittura abbiamo avuto il piacere di aprire sia la prima antologia di Affluenti nel 2016, Affluenti Nuova Poesia Fiorentina 2016, si apriva appunto con i testi inediti di Hassan Adi Al-Nassar. Quindi immaginate di aprire un'antologia di Nuova Poesia Fiorentina con le poesie di un poeta nato niente meno che nell'attuale Nassiriya, ovvero antica Ur, in una delle culle, diciamo così, della civiltà. Ma abbiamo avuto il piacere di aprire anche la collana editoriale di Affluenti nel 2018, nel giugno, se non sbaglio, 2018, con la nuova edizione appunto del Labirinto, che era l'ultimo libro semi-autoprodotto pubblicato da Hassan Adi Al-Nassar, che abbiamo pubblicato in nuova edizione, riveduta e ampliata, anche con alcuni ulteriori inediti, oltre a quelli che erano già confluiti nell'antologia di Affluenti. Appunto, primo titolo di Affluenti collana editoriale. E quindi è stato un poeta, è una persona, un amico, anche come tu stesso Mario dicevi, a cui tutti quanti noi di Affluenti siamo, e non solo, insomma, a cui molti, oltre a noi di Affluenti, siamo rimasti molto legati. E è una persona che penso ci continua ad accompagnare. Per quello che ha espresso, nonostante tutto, nonostante la sua situazione e nonostante le mille difficoltà, e io spesso dico gli infiniti esili che in qualche modo ha vissuto e ha attraversato, ha dovuto affrontare, perché chiaramente, come dire, cioè, la fuga dal neonato regime di Saddam, comunque insomma, da quello che sarebbe qua, insomma, poco dopo diventato il regime di Saddam nel 79 fu solo un inizio, nel senso che loro erano un dissidente politico, ma poi la situazione in cui si è trovato a stare, a vivere in Italia, non è stata certo, insomma, molto più semplice, molto più facile, molto più gestibile da tutti i punti di vista, economico, sociale, culturale, psicologico. Insomma, Hassan in più di 30 anni, nonostante fosse di fatto uno dei poeti d'esilio più importanti che c'erano al mondo, studiato in lavori di dottorato persino all'Università di Sydney, nonché sicuramente una delle primissime voci della poesia migrante, della cosiddetta poesia transnazionale in italiano e fra le più importanti tuttora che ci sono state, qua in Italia, in particolare a Firenze, ha continuato ad avere, insomma, una situazione anche dal punto di vista personale molto difficile, che poi purtroppo l'ha portato anche a una scomparsa di fatto anche piuttosto prematura, perché è morto a 64 anni, se non sbaglio, nel dicembre appunto del 2017, fra l'altro proprio la notte di Natale, che era ricoverato all'incrumieta per un trauma che aveva avuto alla testa e poi alcune ulteriori complicazioni che erano sopraggiunte, e morì la notte di Natale appunto fra il 24 e il 25 dicembre del 2017. Come tu stesso dicevi, Mario, appunto nella ricorrenza del terzo anniversario della scomparsa di Hassan Adi Al-Nassar, e non solo ci sono già state e ci saranno nei prossimi giorni una serie, diciamo, di iniziative che saranno fatte in sua memoria. Una prima tu già l'hai citata, ovvero la pubblicazione di una mia poesia dedicata a Hassan Adi Al-Nassar sul numero di dicembre di Fuori Binario, di cui Hassan fra l'altro era un conoscitore, insomma, conosceva bene la redazione, il giornale, tant'è che Fuori Binario fu il primo, se non sbaglio, la prima rivista, il primo giornale a Firenze a pubblicare un articolo in memoria di Hassan quando Hassan morì nel 2017, ed è uscita appunto questa poesia, che è quella che poi, se ti ricordi, insomma, se gli ascoltatori Sì. ricorderanno, avevo già letto qualche mese fa durante la prima serie di Poemit, che è stata pubblicata nel numero di dicembre di Fuori Binario, insieme tra l'altro ad un altro ricordo di Raffaele Vasaturo, che era un altro storico compagno, nonché redattore di Fuori Binario, che è venuto a mancare anche lui a fine ottobre, se non sbaglio, di quest'anno. E ci saranno poi anche forse alcune altre iniziative, fra cui delle interviste che probabilmente faremo con Laura Bozzi e Margherita Lo Consolo di Affluenti sulla pagina YouTube di un artista iracheno che si chiama Erfan Rashid. È un regista di origine irachena che anche lui vive da molti anni in Italia, fuggito insieme ad Hassan alla fine degli anni 70 o all'inizio degli anni 80 dall'Iraq, e che a partire dai funerali di Hassan abbiamo avuto il piacere di conoscere, con cui siamo rimasti in contatto, e ci ha proposto di realizzare una serie di interviste sia a me che a Margherita Lo Consolo che a Laura Pozzi, che tutte e tre, diciamo, abbiamo conosciuto Hassan in vari momenti, in varie fasi diversi, in varie fasi diverse, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista della vicenda di Hassan, e anche dal punto di vista di quello che poi è stato il percorso che abbiamo fatto insieme con affluenti. Non sappiamo ancora quando esattamente saranno le date, ma penso probabilmente sempre a dicembre, perché appunto l'anniversario ricorre nel mese di dicembre, e sarà questa un'ulteriore iniziativa in ricordo per il terzo anniversario della scomparsa di Hassan Ati al-Nassar. La terza cosa che tu stesso, non so se forse Sì. se avevi già citato Mario, anche il progetto di lavoro sull'archivio per Hassan, che appunto è un altro dei progetti in corso d'opera che ci sono a partire dai funerali di Hassan, con un gruppo di persone che erano state vicine negli anni, e ci incontrammo, ci ritrovammo, e subito ci venne l'idea di provare a non disperdere l'enorme, in qualche modo, patrimonio librario, testuale, culturale, storico che Hassan, che questo poeta esule iracheno, poteva aver lasciato, e ci aveva lasciato, insomma, nei mesi e negli anni in cui era stato, in cui aveva prodotto la sua poesia qua in Italia, in particolare a Firenze. Quindi un po' una parte di questo materiale è stato raccolto, e adesso stiamo iniziando, diciamo, appunto, a muovere i primi passi. Stiamo cercando di muovere i primi passi, anche se ovviamente la situazione è quella che è, quindi non è semplicissimo mettersi in contatto magari anche con varie sovrintendenze archivistiche o varie, diciamo, anche istituzioni fra virgolette, nel senso che, per esempio, forse sei interessato a una rivista che è Semicerchio, che ha sede presso l'Università di Siena, e di cui Hassan, se non sbaglio, era stato anche redattore in alcuni anni, in particolare per quanto riguarda la rubrica di poesia araba di Semicerchio, e forse Semicerchio si era interessata a fornire un eventuale spazio, e magari speriamo anche un qualche tipo di supporto da un punto di vista logistico per la realizzazione appunto di questo archivo su Hassan Ati al-Nassar, che è forse il progetto più grande e più ampio che abbiamo nell'immediato futuro per la valorizzazione e per la memoria di questo autore, di questo poeta. E noi sicuramente continueremo a seguire e a darvi conto di tutti questi esiti. Nell'immediato, però, se sei d'accordo, io ti inviterei a leggere, anzi a rileggere, proprio perché, come ricordavi, ne avevamo già fatto sentire i versi, abbiamo fatto già sentire questi versi in anteprima nella scorsa stagione di Po You It. Ti inviterei a leggere la poesia che in suo onore hai scritto e che è molto bella, fra l'altro io l'ho sentita ed è davvero molto bella. Invito quindi all'attenzione chi ci ascolta, e che, come ricordavi, sta per essere pubblicata sul numero di dicembre di Fuori Binario, una scelta direi intonatissima alla persona, insomma, e anche alla poetica di Hassan. Se l'hai già sotto, quindi io ti inviterei a leggere questa poesia, ne leggerei più tardi anche io, una volentieri dal Labirinto, per poi risentire ancora in conclusione Chiara e Ludovica per un altro paio di poesie. Sì, beh, diciamo, in realtà la poesia su Hassan, appunto, che avevo già letto in anteprima, di cui ringrazio ancora Po You It e Radio Wombat per avermi dato già qualche mese fa la possibilità di iniziare questo percorso anche poetico, oltre che di memoria su Hassan. E questa poesia a lui dedicata in realtà è già stata pubblicata nel numero di dicembre di Fuori Binario, che è uscito, se non sbaglio, qualche giorno fa, a inizio mese, e che appunto si può trovare, si può iniziare a trovare nei vari punti di distribuzione a Firenze. E come sapete, Fuori Binario, come molti ascoltatori penso sapranno, è un giornale di strada, è un giornale che viene distribuito prima di tutto in strada, e tutto quello che, diciamo, i diffusori riescono ad avere, come è un giornale a offerta libera, cioè gran parte di quello che poi i distributori riescono ad avere, oltre ovviamente per coprire le spese di produzione, di stampa, di tiratura del giornale, va ai diffusori stessi, che spesso sono persone che hanno difficoltà anche da un punto di vista abitativo e di condizioni abitative, a volte sono proprio persone che non hanno una casa, e quindi, insomma, ci possiamo immaginare, soprattutto nei mesi che verranno invernali, e insomma sarà penso ancora più particolarmente importante ricordare Hassan su questo giornale, dare voce e continuare a far vivere questa persona e questo poeta. E la poesia, appunto, per la quale ringrazio anche la redazione del giornale per averla pubblicata, è un testo, vi leggo ora, tu Mario avevi già fatto un po' l'introduzione su Hassan, qui comunque diciamo sul numero di dicembre di Fuori Milano c'è anche un brevissimo ricordo, appunto, un brevissimo memoriale, diciamo così, che introduce sia Hassan che questa poesia. Hassan Abi al-Nassar è stato un poeta iracheno. Nel 1979 è stato costretto a fuggire dall'Iraq in quanto oppositore al regime di Saddam Hussein. Ha vissuto molti anni in Italia, ed in particolare a Firenze, dove aveva ottenuto lo status di rifugiato politico. Tematica fondamentale della sua poetica è il dolore dell'esilio, l'anelito di una terra lontana, ma anche la presa di coscienza della fragilità dell'uomo di fronte al mondo circostante, in una condizione d'esilio che va oltre quella puramente geografica. Nel 2016 sue poesie inedite sono state pubblicate in apertura della prima antologia di Affluenti, Nuova Poesia Fiorentina, e la sua ultima raccolta, Il Labirinto, è stata pubblicata in nuove edizioni, riveduta e ampliata, con inediti postumi, sempre da Edizioni Ensemble nel 2018. In questa poesia, ovvero quella che vi vado a leggere, pubblicata in occasione del terzo anniversario della scomparsa, i ricordi dell'autore, ovvero il sottoscritto, si mischiano a versi, immagini e suggestioni delle poesie dello stesso Hassan Atiyah al-Nassar. Provo a guardare questa città con i tuoi occhi, nell'esilio dei sensi, alleati nella guerra, dei giorni accatastati, fra i passi dimenticati, la danza dentro al labirinto dei ricordi. Ti conobbi ad un vinaio di via Panicale, piazza del mercato centrale. Ti ricordava forse i bazar della città di Nasseria. Dicevano che eri un poeta e non riuscivi mai a finire una parola, affogati nei calici divini della povertà. Per questo ti credetti, come i bambini credono ai sogni di cartone, ai racconti masticati di giovani vecchi, in equilibrio sul crinale della vita. Ricordo quando passeggiammo, ubriachi di notte sotto casa di Dante. Mi ci portasti senza dire dove andavo, amico nella via che i nostri desideri colpiscono. Tornavamo da San Pierino, quell'arco sotto al quale litigavi ogni giorno con un debito diverso. Solo Noè ormai ti apriva le porte. Forse il suo vino costava un po' di meno dei saluti di Akira e dell'Happy Spar. Lì nelle sere d'estate leggevi Montale, chiedendo quel verso cosa volesse dire. Le poesie antologiche sulla migrazione, aperte alla pagina dell'amico Besinno. La panchina sul lato esposto alla piazza della pizzicheria di Antonio Porrati era diventata un piccolo salotto d'incontro per memorie naufragate nell'esilio. Tutti dicevano di averti visto lì l'ultima volta, bere, scrivere, ascoltare nel vuoto. Le ragazze sembravano portare tue poesie nei ventri inanellati di farfalle. Venivano a renderti omaggio i doni del caos, amici, conoscenti, profeti, compagni di lavoro per un anno e di bevute per un giorno. Tu stesso dei pirati eri detto il profeta. A quello stupore fra ricordi e promesse, i libri delegati dal vento offrivi in sacrificio. Ti era ufficio stampa in via dell'Ariento, la casa del vino. L'enoteca di Borgo la Croce faceva da antipasto per serate masticate all'Ateneo Libertario, digerite alle Vie Nuove, ammazzate al CPA o alle Lame, a lungo la credemmo casa del Mago Alessio, con uccelli piovuti dal cielo iracheno sui bicchieri di luglio. Ultima fermata, prima del 23, che ti riportava dritto a via di Villamagna. E lì, molte nottate dopo, dove dormivi nel sonno senza stanchezza, scoprimmo la verità, insieme a tante altre. Era Sant'Antonino, la taverna in un vicolo. Nell'eco dei tavolini di marmo sei rimasto nel vetro, con la carta pallida antica illuminata dal calice rosso, senza aggiungere altro. Ai tuoi occhi, Lupeschi, l'intera Sant'Ambrogio protesta. Non te li tolsero nemmeno gli assistenti sociali, quella notte con noi matti di San Sardi, quando gridò un'ultima volta il rumore del vento sulla Firenze che ti ha amato e la Firenze che ti ha odiato, che ti ha donato il sorriso invernale nell'estate, delta di due fiumi, ti ha gettato nel mare un'altra volta. Hassan, quante parole inutili per quello che ci siamo sempre detti, nei profili che assomigliano al profilo della luna. Di poesie e di poeti non si parla, ma si è. Quante volte hai chiesto aiuto dentro all'orto del tuo cuore, districandoti fra i roghi della gioia di vivere, partigiano di un bagliore apolide che ho incontrato negli occhi dei profughi e dei refrattari. Nella quiete discendente delle spade dei Sumeri hanno parlato i martiri di Babilonia e ombre di contadini meridionali in attesa di un compagno che non vedrò più. Ma in quell'esempio abbiamo urlato tanto, tra le città stanche che hanno fatto dimenticare 100 anni sotto la kefia dei lavoratori a giornata. Finché una palma è cresciuta dentro al sogno, quando la sabbia ci è sembrata lenta, perché è stato tempo di riflusso per il nostro amore, duro anche nel sogno, in un mattino ricamato dal volo degli stormi. A purificare la terra nella terra c'era pace senza inizio degli amici ritrovati, che ancora continuano a cercare di un bosco per il canto che non ha paese e per un Iraq divenuto allegoria della loro condizione umana. Ed è cresciuto nel silenzio, dove le tenebre difendono i tuoi morti, nel tuo sangue, quell'ultimo battito che ha inciso sopra il primo filo dell'aurora, una poesia sotto la quale possano distendersi gli uomini randagi. Io penso che chi lo conoscesse, Hassan, lo rivede pienamente in queste parole, in queste immagini, in questi ricordi che ne dai. Beh, grazie Edo per questa lettura. Io ti vorrei fare una brevissima domanda, nel senso che ti chiedo una brevissima risposta, visto i tempi, però mi sembra assolutamente adatta al momento. Quanto ti vorrei chiedere ti ha ispirato e condizionato nella tua poetica, Hassan? Ma inevitabilmente è stato un incontro, come dire, insomma, uno spartiacque, no? E io a Sanati a Nastarlo, come dice un po' questa stessa poesia, questo stesso testo, l'ho conosciuto appunto niente meno che dove lo si poteva più facilmente incontrare a Firenze, ovvero in un vinaio, quello che qualche anno fa, nel 2010, era un vinaino che c'era in via Panicale, dove abitavo, e veramente, come dice la poesia, dicevano che eri un poeta e non riuscivi mai a scrivere una parola, no? E questo era Sanati al-Nastar quando l'ho conosciuto. Era una persona che aveva già, probabilmente stava in quel momento anche attraversando un periodo di particolare crisi rispetto al suo percorso già difficile, già complicato, già martoriato. E veramente chiunque lo potesse incontrare in quel vinaio, come da tante altre parti, probabilmente c'è, cioè, tutto avrebbe detto, tutto avrebbe pensato, tranne che fosse veramente quel poeta che poi, anche di fronte ai miei occhi, si è dimostrato di essere, no? Perché quando iniziò a portarmi, aveva appena pubblicato il mio primo libro, Il Porcospino in Pegaso, con la Felici, era il 2010, mi incuriosì questa cosa e gli andai veramente dietro come un sogno di cartone, no? Come un bambino fa con un cartone animato. Per cui gli detti il mio libro, lui lo lesse, mi dette, diciamo, qualche, come si dice in gergo tecnico, parere di lettura, e io rimasi assolutamente folgorato, questa penso sia proprio la parola più adatta, quando lui invece mi iniziò a passarmi alcune delle cose che scriveva, che scrivendo in quel periodo, tra cui anche un testo, una poesia che si trova nella nuova edizione nel Labirinto, che è L'ultimo pianto di Ur, che è un testo probabilmente dedicato, credo, perché poi in realtà la ricostruzione filologica a dircelo, alla, diciamo, strenua resistenza della terra natale di Hassan, ovvero l'Iraq, di fronte alle più recenti e ulteriori invasioni occidentali, in questo caso, e che è un capolavoro, cioè nel senso che non ho mai avuto neanche un dubbio, se devo essere sincero, a usare questa parola fin da quando ho avuto per la prima volta in mano quella poesia e lì ho capito che stavo avendo a che fare con qualcuno e con qualcosa che non doveva assolutamente, diciamo, andare perso e da cui si poteva soltanto farsi spalancare mondi, no? Per anni abbiamo parlato di incontro, no? Tra culture, tra Oriente e Occidente e beh, io penso che come un poeta come Hassan è stato e in qualche modo è riuscito a essere una risorsa, diciamo, un patrimonio, diciamo così, inestimabile da questo punto di vista, beh, io penso che in Italia e forse non solo, in pochi sono riusciti a farlo, perché la poesia di Hassan è un incontro continuo tra retroterra e elementi, diciamo, di un retroterra culturale e linguistico che viene dal Medio Oriente, no? In particolare dall'Iraq, che insomma dall'antica Mesopotamia, quindi stiamo parlando di qualcosa che evidentemente ha delle radici e delle sedimentazioni molto, molto profonde che vengono da molto lontano nel tempo e sicuramente degli influssi molto ampi su tutta quella che poi è stata la cultura universale. E tutto questo nella poesia di Hassan si incontra con quelli che poi sono i paesaggi, i luoghi, le persone, le vicende del nostro mondo, no? E fra l'altro per quanto ci riguarda anche del mondo che abbiamo proprio sotto casa, no? E io l'ho conosciuto appunto sotto casa mia e le poesie di Hassan raccontano tantissimi luoghi anche della nostra Firenze o in chiave più ampia della Toscana, eccetera. Ma quello che fa soprattutto, no, penso da un punto di vista di senso, no? Cioè di immagini poetiche e di capacità appunto di creare mondi, di inventare mondi tramite il linguaggio, no? E tramite l'incontro tra lingue e fra linguaggi. Cioè io spesso ho pensato che cioè nella poesia di Hassan l'Iraq stesso diventa non più semplicemente un luogo fisico dell'esilio, no? Diventa una vera e propria, quasi un luogo, è un luogo poetico, uno spazio poetico che diventa a suo modo forse una vera e propria allegoria di una condizione umana nella modernità e anche in chiave più ampia, ecco. Per cui sicuramente gli influssi sono stati e sono tuttora enormi. Infatti lo penso anch'io che l'ultimo pianto di Ur sia davvero un capolavoro. Ricordo che sta dentro al Labirinto e che anch'esso lo si può acquistare dal sito Edizioni Ensemble. Peraltro il vinaio di cui parli è proprio il posto in cui tu lo facesti conoscere anche a me, sempre nel 2010, per la prima volta a Hassan, lo ricordo bene, ma non ricordo se era prima o dopo una cena proprio a casa tua. Ho anch'io un sacco di dettagli in mente sulla sua persona, ma sarà un'altra, tanto non sarà l'ultima volta che ne parliamo, e allora sarà un'altra la volta in cui magari li porto. Invece adesso io vorrei leggere anch'io una breve poesia, sempre dal Labirinto, si intitola È la solitudine, e fra le molte l'ho scelta perché mi sembrava abbastanza calzante a questi tempi e anche decisamente intonata al ricordo che ne stiamo dando adesso. È la solitudine. Da solo davanti un fiume freddo, da solo dove vanno le donne, uno dopo l'altra, e lui resta da solo nel buio dove non vede se la luce è vicina, da solo all'ombra degli alberi, da solo con la tristezza e da solo con la gioia, da solo con la guerra che arriva, da solo con Radio 3. Da solo con il freddo disumano dell'inverno, da solo contro la zanzara che nel buio conosce la strada che porta a lui, da solo sull'autobus 23, da solo vivo o morto, da solo con la ragazza che lo spoglia, come se gli togliesse la pelle e lo abbandona nella vasca bianca e fredda, da solo se volesse dire di no, da solo con la febbre che si alza, da solo in un letto distrutto, da solo con la pioggia che gli cade sulla testa, da solo quando mette la testa sotto il cuscino. Da solo se guarda l'Iraq lontano dai suoi occhi, da solo quando la povertà lo attacca, da solo col suo calice assassino, da solo se vuole mangiare pane e cipolla, da solo quando canta De André, da solo quando nell'orto del suo cuore sogna la vita serena che mai avrà, da solo chiuderà la porta per sempre. Sarà sabato o domenica, lunedì o martedì, mercoledì, giovedì o venerdì, da solo quando viene in sua memoria la sua amica Margherita, resta lei da sola e quando accadrà sarà da solo. Da solo quando le stelle ferite cadono nel fiume, da solo sulla panchina in piazza con il suo amico Barrett, da solo se volesse chiudere gli occhi, da solo quando l'Iraq non è più il suo paese e orfano, esule, si chiede vivere o morire, è la solitudine, è l'eterna sofferenza, come i tempi finiti dei caduti. Hassan al-Nassar. Beh, grazie, grazie davvero Mario per questa lettura. Tra l'altro hai scelto un testo molto calzante, appunto per ricordare Hassan in questo momento, e di cui penso saranno molto contenti se ci stanno ascoltando due persone che sono citate tra l'altro in questa poesia di Hassan, ovvero la sua amica Margherita, che si può dire, insomma, non c'è trucco, non c'è inganno, è appunto Margherita Lo Consolo, ovvero autrice anche, oltre che lettrice di Affluenti, una delle prime persone che ho incontrato tramite Hassan e una delle prime, insieme a Laura Bozzi, con cui abbiamo iniziato poi questo percorso, no? E con tante altre persone ovviamente che già seguivano Hassan negli anni e che poi l'hanno seguito anche successivamente con Affluenti, penso a Martin Cardona e a tutti in realtà poi gli autori di Affluenti che sono moltissimo affezionati a questo poeta, qualcuno avendo avuto modo di conoscerlo prima della scomparsa e qualcuno avendolo conosciuto per quella che poi è la cosa forse più importante, ovvero la sua poesia. E sicuramente penso sarà molto felice Margherita di questa lettura e penso sarà felice anche Barrett, che è un'altra persona citata è la solitudine di Hassan e al-Nassar, che è niente meno che Barrett Magarian, ovvero un altro signor scrittore che ha pubblicato il suo libro di poesia, tra l'altro appunto in collana di Affluenti, e che ha anche un romanzo, fra l'altro uscito, Le macchinazioni, bellissimo, con una recensione di Jonathan Coe. Ma insomma, al di là dei crediti o meno letterari, erano due persone, sia Margherita che Barrett, a cui Hassan era molto legato, soprattutto nei suoi ultimi anni, e io ricordo quando ci lette proprio mano a mano questa poesia appena scritta, La solitudine. Non ricordo esattamente se lette a me o a Margherita, insomma, appena scritta, appena battuta al computer, però erano proprio gli ultimi anni in cui lui era ancora con noi, erano i primi anni in cui, forse addirittura era il periodo di Libero Asfalto, quando uscì, tra l'altro, l'edizione ebook in digitale del Labirinto con la Matisco Edizioni, e io curavo una rubrica su Libero Asfalto in cui pubblicavo, fra le varie cose, anche alcuni testi inediti di Hassan al-Nassar, di cui non ricordo se pubblicai anche La solitudine, ma penso di sì, ma erano quegli anni, probabilmente tra il 2015 forse e il 2016, in cui lui ci dette a me, a Margherita, entrambi, a uno di noi, non ricordo, questo testo che poi abbiamo chiesto ad Hassan di poter pubblicare fin dalla prima antologia di Affluenti, dove si trova appunto è La solitudine, e che poi abbiamo inserito fra i testi inediti, diciamo, non fra quelli pienamente inediti, ma fra quelli che erano inediti prima di Affluenti, e che poi abbiamo inserito in appendice anche alla nuova edizione del Labirinto, che abbiamo pubblicato poco dopo la sua scomparsa, ovvero appunto nel maggio-giugno del 2018. Beh, ma siccome non è davvero, davvero l'ultima volta di cui parliamo, in cui parliamo di Hassan, direi che siccome stiamo tre quarti d'ora oltre il momento in cui avremmo dovuto terminare la trasmissione, ma del resto ci piaceva oggi parlare a lungo di tutto questo e con tutti questi ospiti, direi di fare, se sei d'accordo Edo, risentire le due voci che avevamo in apertura di trasmissione, ovvero le due poetesse ospiti di oggi, i cui libri, ricordo, si possono trovare appunto su Edizioni Ensemble. Vediamo se ci sono sempre Chiara e Ludovica. Chiara, magari sentiamo prima Chiara Nobilia, se c'è. Ciao Chiara, sei sempre connessa? Ci sono. Parliamo prima con Chiara di Ludovica, perché abbiamo l'audio che funziona un pochino meglio con lei. Ti volevamo sentire per un ultimo saluto e per chiederti ancora un paio dei tuoi versi, un'ultima poesia da leggere, se avessi voglia di condividere ancora qualcosa di tuo assieme con noi. Altre due autrici con le quali contiamo, molto non volentieri. Sia l'ultima volta di cui parliamo. Scusa. Allora, eccomi. Partecipo a quest'ultimo momento molto volentieri, anche se dopo il ricordo di Hassan al-Nassar entro davvero in punta di piedi e umilmente. Beh, con un altro ricordo importante però, cioè con un'altra, diciamo, persona importante che andrebbe sempre ricordata, insomma, in questo paese. Assolutamente sì. Mi fa infatti molto piacere leggere questa poesia che si intitola Per ogni sua sillaba, dedicata a Stefano Cucchi. Stefano, preso a calci e pugni. Pantaloncini con fantasia mimetica e scarpette da ginnastica con velcro, il bambino seduto davanti a me in metro. Sperimenta la sillabazione utilizzando il titolo cubitale da prima pagina di Leggo. Non sa che sta leggendo di abuso di potere, di omertà, dell'omicidio Cucchi, mentre ricomincia a scandire Stefano preso a calci e pugni. Piccolo neofita della compitazione, non sa che sta acquisendo la tecnica della lettura. Avvalendosi di una verità emersa dopo anni di coraggiosa e immensa lotta. Intanto io mi edifico godendo di questo spettacolo, un bambino che impara a leggere, avendo a disposizione qualcosa di straordinario e prezioso, come soltanto un'informazione corretta può essere. Lo spettacolo è talmente splendente che mi fa sognare. Sognare informazioni corrette e aderenti alla realtà, disponibili per ogni bambino, per ogni suo giorno, per ogni sua sillaba. Grazie Chiara, grazie per questa lettura e vediamo se Ludovica riesce a esserci anche lei. Ciao Ciao Ludovica. Ludovico. Ci sono. Non ti parlo Non ti sopra parlo perché sopra sentiamo perché sentiamo l'eco. l'eco. Sì, ci sono. Ancora sotto impatto dei testi di Hassan, ma ci sono. E vado a leggere Intro, che palesemente è il testo di apertura del libro e che restituisce un po' l'idea dell'atmosfera generale. Di crollo d'impero. Intro. È la conca stanca della cittadona che ti spinge soltanto a inseguire di notte le blatte più nere di Largo Preneste. È il bangla abusivo da vendita landa, viso corroso, con racconti migranti quali i tuoi, però diversi, a intrattenerti in piazza la sera. L'immobile fu fabbrica a brandelli d'aere, imponente alle porte di San Basilio, a illuminarti d'un tratto nel traffico di disorientante timore sacrale, sgomento estatico a te estraneo, rigurgito di spirito, altrimenti sopito, da passo indietro reverenziale. E le idee migliori è dato che emergano sul tratto noto del tram 19. Ma il loro valore si attenua, digrada, si dipana, poi si azzera, già soltanto all'altezza della Nomentana. Ma è solo attraversando a trotto felpato, cappuccio calcato, sciarpa nera fino al naso, il sottopasso noto riempiente a giolitti, inalando gli spasmi fetidi di cittadona annaspante ultimi aliti. Affogante, pestilente, fiaccata in agonia, straziata di ere nell'aria annerita, ormai in circolo in te, che ti senti orgogliosamente guerriero. Grazie. Grazie a te, Grazie a te. Grazie a te, Ludovica, Ludovica. e E grazie grazie. anche a Chiara, grazie davvero per questa partecipazione. Ludovica Lanini e Chiara Nobilia con i loro libri e con le loro raccolte pubblicate quest'anno nelle edizioni La Collana Erkind, con Crollo d'Impero e Svolgermi Ramificata. Grazie davvero per questa partecipazione. Edo, grazie anche a te. Grazie a voi, grazie Radio Wombat. Scusa Chiara, abbiamo un attimo i problemi con i tempi, ci fa molto piacere un saluto invece. Eccomi allora. Volevo appunto ringraziare Edoardo per l'invito, Edoardo, Mario per averci supportato, per averci accolto. È stato veramente un momento ricchissimo, intenso e sono felice di averlo condiviso con Ludovica Lanini, che è una poetessa veramente potente, interessante e quindi tanta gratitudine. Ludovica, un saluto anche a te. Scusate, eccomi. Grazie, grazie veramente. Anch'io sono molto contenta di aver condiviso questo spazio poetico con Chiara Nobilia, che ormai, come dire, abbiamo una collaborazione attiva, possiamo dire. Quindi grazie a Edoardo e a Radio Wombat, grazie davvero. Grazie a voi, cara Ludovica, per aver accettato questo invito e insomma, penso che ci avete portato tantissime cose molto molto belle e molto interessanti e vi facciamo anche un grande in bocca al lupo, insomma, come poi per il proseguimento di questi vostri percorsi poetici e anche di questo progetto editoriale di Erkind insieme ad Alessandra Bava e che ben conosciamo insomma, tutti quanti e penso che avremo ancora molti momenti da poter condividere insieme. Senz'altro sì, i link fra l'altro ai loro libri li troveremo in descrizione, chi ci ascolta li troverà in descrizione della trasmissione che caricheremo in podcast già da stasera, la prossima puntata di Poi You It è la seconda domenica di gennaio, caro Ido alla fine andiamo sempre in poesia ma magari a gennaio proviamo a metterci un po' più di prosa, giusto per bilanciare un attimo, non perché non si voglia continuare come se non ci fosse un domani con la poesia in effetti. Però qualche opera in prosa ci sembra giusto e sarà probabilmente la puntata di gennaio quella in cui ne parleremo un po' di più. Ricordo soltanto velocemente che La fuga del gatto, che andava sempre in onda dopo questa trasmissione, abbiamo spostata nel palinsesto e va in onda invece il sabato pomeriggio, dopo di noi, fra un'ora alle 19, andrà in diretta L'arte del vizio, live da Frittole, con i grandissimi in camicia che faranno un super live per Radio Wombat, si può ascoltare come sempre sulle 13:59 AM oppure su radiowombat.net, in replica, in podcast, sul sito e per contattarci invece la pagina contatti dal sito radiowombat.net oppure direttamente scrivendo apposta@insiberia.net. Mi sa che nel dire mi sono intrecciato in qualche cosa. Grazie ai compagni di Radio Onda Rossa e di Scarceranda e un caro saluto a Salvatore Ricciardi ed Hassan Al-Nassar, due persone importanti che non ci sono fisicamente più, ma ancora presentissime. Ciao Edo e a risentirci con tutti a gennaio, direi. Ciao Mario, grazie ancora, grazie a Poi You It, Radio Wombat e ci rivediamo fra un anno, nel 2021, sperando che sia un anno ancora più potente di questo, insomma già ce ne ha riservate parecchie, ma continuiamo a guardare ben oltre. Ben oltre. E infatti buon anno e all'anno prossimo. All'anno prossimo. Ciao a tutti. Ciao. Leggere è un modo per viaggiare. What's up, y'all? This is your boy D-Mike. See, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Direi che è il modo più bello per viaggiare.